I conti della belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24 ed eccoci in questo sabato 27 di febbraio, 10:07 primi 39 secondi in diretta agli studi di Milano di Radio 24, i compari dei conti della belva, oltre a Oscar Giannino qui al microfono, insieme Mario Seminerio, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli ci raggiungerà in collegamento più tardi, come più tardi tornerà a collegarsi con noi da Pechino Rita Fatiguso per il rituale punto anche su come vanno le cose in Cina. Allora, di che cosa parliamo in questa puntata? Come solito vi do una brevissima sintesi dei temi che tratteremo per consentirvi di decidere se telefonarci all'800240024 per le opinioni, lo sapete, gli sms 349-238-6666. Allora, cominciamo come tutti i sabati con il rituale punto sui numeri nuovi della crisi italiana, di quella internazionale, lo sfondo è il G20 in corso a Shanghai e ieri, ne trovate oggi resoconti sui giornali, l'incontro dopo due mesi di aspre polemiche tra Roma e Bruxelles, tra il Presidente del Consiglio italiano e il Presidente della Commissione europea Juncker. Dopo questa riflessione sui numeri andiamo a un primo blocco dedicato a un libro che vi consigliamo di leggere, è un po' l'anti-storytelling, come vogliamo definirlo, rispetto a quello ufficiale italiano, perché Antonio Galdo, un giornalista di parecchi anni di esperienza, a dire la verità, quindi uno di quelli col pelo sullo stomaco per così dire, ha scritto un libro per Einaudi che si chiama Ultimi, ecco, così le statistiche condannano l'Italia, quindi come vedete è un titolo non lieve per così dire, che però ha il merito, sono 111 paginette, io ve lo consiglio perché si legge proprio in fretta, tutto d'un fiato, ha il merito A di essere per un pubblico non solo di specialisti e B di mettere insieme davvero un bel po' di ranking internazionali da cui l'Italia esce un po' con le ossa rotte su molti argomenti, come vedrete la scuola, le università, le pensioni, la classe dimensionale delle imprese italiane, la loro bassa innovazione, la giustizia penale civile, gli appalti truccati, la gestione del ciclo dei rifiuti e così via, per fare una riflessione in 100 pagine, ecco la verità che noi non vogliamo guardare, i cui tempi di trasformazione sono lunghissimi e che anzi ci vedono intervenire nel miglioramento con tempi molto più lenti di quanto non capita a moltissimi altri paesi nostri concorrenti. Quindi cominciamo con questa riflessione con il libro di Antonio Galdo e andiamo poi a occuparci invece di una cosa che si indica con un termine inglese, lo smart working, quindi il lavoro intelligente, per capire, traendo spunto da un bell'accordo che è stato firmato in Barilla e che riguarda fino a 1600 colletti bianchi di Barilla, tentare di capire che cosa diavolo è lo smart working, cioè a quanti si può immaginare di estendere e in che modo la modalità di lavoro da casa, per chi? Per chi ha i bambini piccoli, per chi assiste anziani e ha carichi parentali rilevanti a casa, ma come si può fare? Si può estendere a quale tipo di qualifiche? Che tipo di detassazione c'è da parte dello Stato? Chi sono i suoi fautori? Chi si oppone? Insomma, vediamo se questa forma di trasformazione dei rapporti di lavoro è poco più di un abbellimento, oppure se invece può essere, io credo che sia, della verità, una delle leve attraverso cui trasformiamo il modo di lavorare sempre di più nel nostro paese. E anche qui ci confronteremo da una parte con la voce di un sindacato che ha firmato gli accordi e dall'altra con chi ha messo in piedi un osservatorio su questo come su altri aspetti della trasformazione del mercato del lavoro italiano, un mercato del lavoro italiano sul quale girano anche lì i numeri da una parte con l'enfasi di vele transoceaniche, di campioni di traversate transoceaniche e dall'altra i numeri invece degli stock sono molto più modesti, però parleremo anche con chi appunto segue con l'osservatorio sullo smart working al Politecnico di Milano, poi l'appuntamento con Rita Fatiguso dalla Cina e infine con Renato Cifarelli per, che non si può fare, con qualche esempio di quello che invece si dovrebbe cambiare, capita agli imprenditori italiani. Ma se questo è lo schema, cominciamo con il nostro giro di opinioni con Mario Carlo Alberto su che cosa, oltre a tutto questo, vi ha colpito in settimana, Mario. Allora, una cosa che mi ha fatto sorridere, dopo che il nostro premier ha detto che era molto preoccupato per la salute della prima e della seconda banca tedesca, che immagino siano Deutsche Bank e Commerzbank, Deutsche aveva lanciato una operazione di riacquisto di obbligazioni senior proprie, per dare una sorta di messaggio di fiducia al mercato, cioè dicendo: guardate che noi siamo assolutamente liquidi, possiamo permetterci di riacquistare i nostri bond. Ebbene, praticamente riacquistava fino a 3 miliardi, alla fine nessuno voleva consegnare, sono stati costretti ad alzare il prezzo di riacquisto e ne hanno ricevuto in cambio meno della metà. Per cui, malgrado, diciamo, i warning autorevoli provenienti dal primo ministro di un altro paese, che ha ruoli invertiti, probabilmente adesso saremmo qui in piazza a urlare tutti avvolti nel tricolore, gli investitori domestici e internazionali hanno dato ancora fiducia a Deutsche Bank. Ora, magari sbagliano loro, magari sbaglia Renzi, però, diciamo, mi pare un po', come dire, un interessante segnale contrarian quando il Presidente del Consiglio si impegna a dare questi segnali di fragilità e di preoccupazione per gli altri anziché per noi stessi. Comunque è solo un aneddoto e abbastanza buffo, perché dà la misura, diciamo, di quando vogliamo metterci le scarpe di cartone e andare in guerra, questi sono più o meno i risultati. Dopodiché invito te noi, caro Alberto, no, ma tutti i nostri ascoltatori a riflettere su quali sarebbero le reazioni dei media italiani se il presidente del Consiglio, il cancelliere tedesco, in un suo discorso citasse le due banche italiane, Intesa, esatto, esplicitamente. Esatto. Immaginate che tipo di reazioni, quante ventine di pagine trovereste sui giornali dicendo: "Unni barbari tornate nelle fogne, eccetera, eccetera, come ti permetti?" Ecco, noi lo facciamo con questa disinvoltura, toppiamo clamorosamente, come spiega Mario, e quindi ci dobbiamo rimpannucciare con la coduccia tra le zampe. Prima o poi avremo ragione, non so quando sarà questo poi. Ma leggi poco, vedremo. Marco Fortis. No, guarda, lo leggo abbastanza. In realtà adesso ho deciso di prendermi un mini sabbatico dagli scritti di Fortis, perché per me sono decisamente leggi troppo. Poco Marco Fortis, che ieri ha spiegato ai lettori del Sole 24 Ore che abbiamo il debito pubblico più solido, non so, d'Europa, ma quasi del mondo, praticamente, citando un report di una grandissima fondazione tedesca, citata anche ieri dal Presidente del Consiglio, ovviamente, nella conferenza stampa. Rigorosamente in tedesco, però. Con Juncker. Peccato che leggendo l'articolo non si capisse, non venisse spiegato come era calcolato questo debito pubblico implicito fortissimo dell'Italia rispetto a tutti gli altri. È implicito, ma non chiedo, fare domande sulle cose implicite, sono implicite. Quello esplicito ovviamente è il doppio degli altri. Ammetto che sono io che non ci però arrivo. Il mercato non capisce. Il mercato, agenzie di rating, istituzioni internazionali, regolatori, Mario, nessuno capisce l'Italia. Veramente siamo incompresi. Fate qualcosa, vi prego. Fate presto. Ma rischiamo, non attribuire ragazzi titoli editorialmente scomodi, caro Mario. No, invece vi devo confessare che proprio perché oggi parliamo di smart working, cioè di lavoro intelligente, mi devo lamentare della disoccupazione stupida. Eurostat pubblica in questa settimana i dati con cui gli italiani, i disoccupati, cercano lavoro. Bene, siamo peggiorati di oltre 10 punti percentuali rispetto agli anni Ottanta. Non è possibile, per definizione. L'84% dei disoccupati chiede la raccomandazione ai conoscenti, e siamo quindi primi in Europa per l'utilizzo del canale informale e l'ultimo per l'utilizzo delle agenzie pubbliche, degli strumenti che non funzionano. Però, diciamo, per farvi capire, l'Italia c'è l'84% di disoccupati che si rivolgono ad amici e parenti. Ma perché l'Italia ha ripreso fiducia? Fate conto, in Germania stiamo parlando del 75% invece che si lavora, che si rivolge ai centri pubblici. Ma perché i tedeschi non hanno fiducia, come vedi se stessi. No, fammi dire l'altro elemento, che solo il 25% circa degli italiani si rivolge ad annunci pubblici o a, diciamo, motori di ricerca, quindi a tecnologie moderne, contro sempre la Germania che fa quasi il 60%. Ancora una volta, quindi, siamo ultimi, come direbbe poi il collega giornalista che ci aiuterà più tardi, ultimi in una classifica fondamentale. La disoccupazione giovanile più alta d'Europa, insieme alla Grecia, e la propensione più bassa in Europa a utilizzare modelli moderni e canali moderni. Questo è veramente preoccupante, perché vuol dire che il mercato del lavoro ancora locale, parentale, relazionale, e non riusciamo a mettere in moto il meccanismo di scambio delle professionalità. Quindi fuggono, sono ferme e non si mettono in discussione sul mercato del lavoro. Sono segnali veramente preoccupanti. Allora, torniamo tra un minuto con il punto di Mario. Della belva. Ed eccoci con il nostro rituale punto, con la crisi e la sigletta relativa. Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Allora Mario, da cosa vogliamo cominciare come punto dei numeri delle novità di questa settimana? Ma insomma, sono usciti i dati delle vendite al dettaglio e diciamo, siccome contano i valori reali, quindi quelli depurati dalle variazioni dei prezzi, e il dato italiano non è che sia il massimo della vita, no? Perché su dicembre vediamo che c'è una flessione sia rispetto a novembre, quindi in volume, cioè dati di vendite al dettaglio reali dello 0,1, e rispetto a dicembre 2014 meno 0,2. Poi nel trimestre ottobre-dicembre 2015 il volume delle vendite cala dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti. Che vuol dire questo? Vuol dire essenzialmente, senza scendere in eccesso di tecnicalità, che c'è questa pressione alla disinflazione barra deflazione che induce le aziende commerciali a ridurre i prezzi, e malgrado ciò le quantità vendute tendono comunque a calare con il passare del tempo. Ora, potete intendere questa cosa come una sorta di decrescita, come maggiore morigeratezza in un certo tipo di consumi e quant'altro. Potete anche intenderlo come il fatto che comunque le famiglie e i consumatori sono diventati molto attenti, hanno comunque un vincolo di bilancio, e quindi questo tende a scaricarsi sui conti delle imprese che operano nel commercio al dettaglio, che sono conti non floridissimi, perché sono aziende che hanno una struttura di costo che soffre perché i prezzi tendono a scendere. Quindi se poi guardiamo anche altri dati, come i dati Market, che sono gli indici dei direttori acquisti di imprese del commercio al dettaglio, vediamo ad esempio l'ultimo dato relativo al mese di gennaio pubblicato a febbraio, che dice: a gennaio la combinazione tra calo delle vendite e sconti, perché è importante, le aziende praticano sconti anche piuttosto aggressivi. Il più grande investimento che fa la distribuzione italiana rimane con circa 8-9 miliardi in promozioni. Cioè, esatto. Noi spendiamo a livello di distribuzione la più alta cifra d'Europa nello spingere le persone a scegliere lo sconto. È una cosa paradossale, quando in realtà poi invece tecnologie di CRM, cioè di marketing avanzato, di profilazione, invece sono a budget estremamente limitati. E qui il paradosso di una distribuzione che si scava la fossa, Mario, perché sta aiutando la disinflazione e l'opportunismo, che a questo punto è diventato sistematico, dei consumatori, i quali vanno a caccia di sconti. Ormai la comparazione del prezzo, lo hanno visto anche i dati del famoso ROPO, cioè del Research Online e Purchase Offline, traduco, della ricerca e comparazione dei prezzi su internet, per poi andare a fare shopping mirato nei vari punti vendita alla ricerca del prezzo più basso. Questo segnale aggregato conferma un trend micro che vediamo nella distribuzione. Quindi calo delle vendite e politica aggressiva di sconti ha causato un ulteriore calo dei margini lordi dei dettaglianti italiani. E queste sono cose che prima o poi si pagano. Notate, ancora una volta, questo è il riscontro indiretto tra indici di fiducia dei consumatori stellari, per quanto l'ultimo dato è in una fisiologica flessione, e andamento delle vendite effettive. Cioè molta fiducia, almeno diciamo anche a seguito di tutto il battage propagandistico, però la gente compra in maniera opportunistica, compra con grande attenzione al prezzo, e per certi aspetti possiamo anche dire che una certa mentalità deflazionistica ha messo radici nel consumo consumatore, il che non è necessariamente un male, perché stimola l'innovazione di prodotto e processo, l'innovazione commerciale, l'innovazione in senso lato, però è una cosa di cui si deve tenere conto. Poi altre due cose volanti per quanto riguarda i dati, eccetera. Solo il 4 marzo uscirà la disaggregazione del PIL italiano del quarto trimestre. In quella circostanza potremo capire chi ha originato questa crescita, mentre per gli altri uffici statistici nazionali dei maggiori paesi europei i dati sono già noti. Però se andiamo a confrontare l'andamento dell'ultimo anno del terzo trimestre, quindi terzo trimestre 2015 su terzo trimestre 2014, notiamo che per l'Italia la crescita è stata fatta essenzialmente dai consumatori, mentre la spesa pubblica è rimasta invariata e gli investimenti sono rimasti stagnanti, il commercio estero netto ha sottratto qualcosina alla crescita. Mentre nel caso tedesco è successo che la spesa per consumi è andata molto bene e anche la spesa pubblica, oltre naturalmente agli investimenti, mentre il commercio estero non ha aggiunto né sottratto nulla alla crescita tedesca. Ora, quindi, ma come? Quindi, il mercantilismo tedesco? Quindi, esatto, allora, il mercantilismo tedesco in quest'ultimo anno non si è visto. L'austerità tedesca in quest'ultimo anno non si è vista, perché il consumatore tedesco è vivo e lotta assieme a noi. I dati ovviamente di interscambio commerciale della Germania col resto dell'Eurozona sono e restano in equilibrio. Per cui noi stiamo assistendo in queste settimane in Italia ad un dibattito che ci ha messo nella macchina del tempo e ci ha riportato al 2011, quando in realtà attualmente non sta succedendo quello che succedeva nel 2011. Però la nostra abilità da italiani di guardare nello specchietto retrovisore e di parlare di argomenti che non padroneggiamo resta una costante. Ultimo punto. Fammi dire solo una cosa sul rapporto fra investimenti lordi e PIL. L'Italia è ancora un quarto della Germania, cioè la Germania investe ancora il quadruplo dell'Italia in termini di formazione del capitale lordo. Quindi la base per la produttività futura purtroppo la Germania li sta mettendo, noi no, questo va detto con estrema chiarezza. Esatto, la dinamica degli investimenti rimane il dato più preoccupante a livello aggregato. Allora, e ultima cosa, abbiamo scoperto, lo ha scoperto la Corte dei Conti, lo hanno scoperto tutti, che la nostra decontribuzione sulle nuove assunzioni transitoria è un problema. Ulla. Perché quando sarà svanita torneremo ad avere un poderoso cuneo fiscale. E torneremo allo stesso tipo di dibattito pubblico che abbiamo avuto in questo paese fino al 2011, 2012 e 2013. Che dire, continuiamo a guardare nello specchietto retrovisore e andiamo avanti con la commedia degli autoinganni. Tuttavia, i prossimi mesi saranno interessanti. Io credo, come già si è evidenziato ed è emerso ieri dalla pace, diciamo, tra Juncker e Renzi, che l'Italia pagherà dazio con un piccolo aggiustamento dei conti pubblici e dopodiché avremo comprato ulteriore tempo sperando che la congiuntura internazionale non peggiori. Nel frattempo il presidente del Consiglio Renzi così parla. Negli ultimi due anni in Italia le tasse hanno iniziato ad andare giù. Tant'è vero che devono inventarsi le balle per raccontare che stanno salendo. Qualcuno ha letto, qualcuno dice no, forse aumenta le tasse sugli ascensori. Se facessimo le tasse sui procurato allarme avremmo risolto il problema del debito pubblico italiano. Sono tutte cose che non stanno né in cielo né in terra, assolutamente false. Le tasse vanno giù e il fatto che le tasse vadano giù è il primo grande incoraggiamento per le piccole e medie imprese. Allora, naturalmente mi tocca ripetere a nastro che per quanto mi riguarda, quando vedrò nelle statistiche ufficiali la pressione fiscale che scende, lo dirò. Siccome nel 2015, sia pur di un punto decimale, di uno 0,1%, sale sul 2014, sono i conti ufficiali del governo, sono inoppugnabili. Però questa è l'aria che tira, ed è un'aria che tira a cui i giornali, mi dispiace, sono molto proni, per così dire, molto proni. Cioè, io oggi ho fatto un editoriale all'incontro di ieri con il presidente della Commissione Europea da parte del presidente del Consiglio, che si chiude con chiedendo la BCE 10 marzo una riflessione sul fatto che la BCE 10 marzo secondo me dovrebbe fare marcia indietro sui tassi negativi invece che approfondire i tassi negativi, perché stanno producendo un effetto opposto rispetto a quello previsto, per così dire, tutto il cui sarebbe da rivedere in senso critico. E attualmente mi trovo invece un titolo che dice: sono i tedeschi che dicono no. Ma vabbè, mi pare un po' difficile che i tedeschi dicano no al rientro dei tassi negativi, visto che anche loro ne subiscono l'effetto. Però voglio dire, siamo molto proni noi a questo tipo di impostazione, per il quale i numeri ufficiali del governo non valgono, perché bisogna dire l'opposto. E in questo caso chi è che racconta una storia? Racconta una storia del Presidente del Consiglio che dice non tenete conto dei numeri ufficiali, oppure siamo noi che leggiamo i numeri ufficiali, detta fuori dai denti? Ecco, la cosa che mi ha molto incuriosito ieri, che abbiamo approfondito per chi vuole leggere sul Messaggero, è capire finalmente qual è la richiesta italiana sulla flessibilità. Perché fino a tutti questi mesi non l'avevamo capito, a dire la verità, lo dico giornalisticamente, cioè era evidente che c'era una richiesta di margine ulteriore di sfondamento sul 2016, ma soprattutto, parliamoci chiaro, sul 2017, che ha in corpo la legge di stabilità del 2017, di nuovo un po' più di un punto di PIL di clausola di salvaguardia fiscale, cioè di nuovo più IVA e più accise. Ma non si era capito bene i presupposti formali della richiesta italiana, anche perché nel documento, nel position paper uscito qualche giorno fa sul sito del governo ed elaborato dal MEF con un tono conciliante che è stato confermato, no Mario e Carlo Alberto, avete visto ieri dall'incontro lingua in bocca, quasi a braccio, con Juncker, e lì dal position paper si diceva: la BRRD tutto bene sulle banche, anzi bisogna comunicarla agli stakeholder delle banche, bisogna fare in modo che dispieghi i suoi benefici effetti di separare la finanza pubblica dalla salvataggio delle banche. Quanto all'interpretazione della flessibilità sui conti, benissimo il testo della Commissione, si legge il documento e non si capiva che cosa chiede l'Italia. Ieri un po' abbiamo capito lavorando all'ater, cioè l'Italia dice e ribadisce a Juncker, e Juncker conferma: noi ci atteniamo al testo di interpretazione della flessibilità sul bilancio del gennaio 2015 della Commissione. Benissimo. Quello che l'Italia fa presente a Juncker invece non piace al governo italiano è che Juncker ieri non ha respinto, quindi si è aperta una porta, è relativo all'interpretazione ulteriormente restrittiva che il COREPER, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti presso il Consiglio Europeo, ha dato di quell'accordo, di quel documento del gennaio 2015, nel novembre 2015. Cosa si dice nel novembre 2015? Che la somma delle clausole di flessibilità per investimenti e per riforme, ogni paese membro dell'euroarea in realtà la può utilizzare una sola volta nel tragitto fino all'ottenimento dell'azzeramento del deficit. La posizione italiana, che non contesta il gennaio 2015, cioè la Commissione, ma invece contesta durissimamente e riservatamente questa interpretazione di novembre, è che questo giro di vite sia sbagliato, perché dice: come si vede, il rallentamento mondiale è di nuovo in corso e l'economia ha una crescita che già sta diminuendo significativamente rispetto alla tesi da inizio anno, ma non solo quella italiana, anche quella europea, anche i dati tedeschi non sono un granché. Allora, noi dobbiamo sì tenere per buona l'interpretazione della flessibilità della Commissione europea di gennaio, no quella di novembre. Cosa vuol dire in soldoni? In soldoni significherebbe che mentre con l'interpretazione restrittiva del Comitato dei Rappresentanti Permanenti del Consiglio europeo, l'Italia sul bilancio 2017 sarebbe costretta ad avere l'1,1 di deficit, che è l'obiettivo scritto di rientro a tappe, più solo uno 0,2% non utilizzato. Se passa invece l'interpretazione italiana, noi a quel punto siamo di nuovo in un regime di deficit dell'anno prossimo tra l'1,6 e il 2%. Ecco, almeno abbiamo capito di che cosa si tratta, a dirvi la verità, perché altrimenti prima non si capiva. Capisco che è una spiegazione aridamente un po' tecnicuccia, però questo spiega perché ieri c'era questo atteggiamento così positivo, perché il vero rinvio, il sottinteso è: vediamo il 10 marzo cosa fa la BCE. La BCE dovrebbe cambiare di parecchio le modalità e l'intensità del suo QI, vedremo, e a quel punto vediamo come vanno i mercati e, cari amici tedeschi, facciamo una riflessione tutti insieme, perché altrimenti l'Europa finisce per crescere troppo poco. Ecco, questa è un pochino la sintesi dell'incontro avvenuto ieri, e nel frattempo tanti saluti, baci e abbracci alle ragazze del Bar Tabacchi, rendezvous a Portici di Caserta, che ci seguono e ci chiedono: ma perché noi vi salutiamo e voi non ci controsalutate mai? Eccoci qua, siamo pronti a farlo e torniamo tra un minuto. racconti della belva. Eccoci qui, tornati in studio con il compagno dei Conti della Belva, oltre a Oscar, Mario e Carlo Alberto. E ricordatevi che lo spirito della trasmissione, lo spirito della trasmissione è uno spirito... Suonate la carica! No, questo lo diciamo a tutti coloro che naturalmente dicono che noi abbiamo l'effetto deprimente, vogliamo l'Italia deprimente. Il contrario, noi vogliamo un'Italia che invece... corra come si dia una mossa, esatto, magari guardando i numeri, ecco, non dandoli. No, dice, raccontateci qualcosa di positivo, avreste un triplo ascolto, carpiato aggiungo io, un triplo ascolto. No, ma comunque noi non, ragazzi, non ci buttiamo giù, nel senso che ognuno ha il suo compito, esiste... Però ci sono anche quelli che cedono in direzione opposta, certo. Perché dice siete mille volte meglio di una grande trombata. Io su questo avrei qualche dubbio, però insomma grazie. No, non inflazionare, io avrei 500-550 volte al massimo. Perfetto. Esatto, sì sì, esatto. Comunque caro ascoltatore, se vuole ci mettiamo in privato qualche consiglio, perché no io mi preoccupo per la curva di depressione della sua ma vita. Sai, c'è questa, oltre alla pedofilia c'è anche questa zoofilia ormai, quindi ragazzi, non ricordate questa cosa ieri? Certo che la ricordiamo, ieri è stato un giorno divertentissimo in radio. Raccomando ai nostri ascoltatori di ascoltarsi il podcast della trasmissione. Sì, attenti a noi due mattina. Va bene, no, perché un conduttore non deve mai alzare la voce. Devo dire che quando io sento dire però che il rapporto omosessuale è un rapporto che si ha ragione a sostenere che come quello cane padrone, effettivamente ho sbagliato, ragazzi. Allora, questo librino che ci dà lo spunto, dico librino ultimi. Perché sono 111 ultimi, paginette, belle dense, però che io in Audi editore, ultimi il titolo, l'autore Antonio Galdo, giornalista, che ha messo insieme, ci sono per coloro che volessero obiettare tutti i riferimenti bibliografici dei siti e delle pubblicazioni con le diverse fonti delle statistiche citate, quindi è un lavoro rigoroso, non è una narrazione pretestuosa, anti-italiana e antipatriottica, per essere chiari, come si corre il rischio oggi di essere indicati se si parla di numeri veri, e il merito di Antonio Galdo è appunto quello di dire, vabbè, facciamo un piccolo compendio da mettere nelle mani degli italiani per tentare di far capire loro quanto spazio c'è da recuperare rispetto alle classifiche internazionali su molti aspetti fondamentali della nostra vita pubblica. E quindi io vi leggo lì, prima di presentarvelo e di fare la parola a lui, di chiedergli come gli è venuto in testa, l'indice del libro per capire quali sono gli argomenti che tratta. Primo capitolo, il futuro dietro di noi, titolo La costosa scuola dei somari. Secondo capitoletto, l'università italiana fuori dal mondo. Terzo capitoletto, le pensioni dei nonni per nipoti che aspettano l'eredità. Poi, il cortocircuito del lavoro che non c'è, o la tassa sull'eredità. Breve. Secondo macrocapitolo, poca innovazione e tanti soldi sotto il materasso. Titoletti, piccolo non è più bello. La ricerca, finanziamo solo quella degli altri. Sempre meno brevetti. Questo quindi riguarda anche le imprese, come vedete. Il mezzogiorno alla deriva, tema dimenticato dall'agenda pubblica, il primato che abbiamo perso nel turismo, e poi terzo macrocapitolo, il prezzo della corruzione, sanità, si spende molto e si offre poco, la giustizia penale civile non esiste, un appalto su tre è truccato, sommersi dalla spazzatura è un ecoreato ogni 18 minuti, il miraggio dell'Italia digitale, a proposito dei sistemi per la ricerca del lavoro e dei dati che citava prima Carlo Alberto, e poi le conclusioni tra paura e scetticismo. Grazie Antonio Galdo di essere con noi. Buongiorno. Grazie soprattutto per il libro e lo spirito con cui l'hai scritto. Come ti è venuto? Ma non ti rendi conto di esporti anche tu un po' come noi, peggio di noi o insieme a noi, all'accusa di essere un anti-italiano, a non vedere questo strepitoso nuovo ottimismo, fiducia che vibra nelle corde e nei numeri che noi non vediamo della ripresa italiana? Non ti esponi anche un po' tu? Ma io credo che ciascuno debba fare il suo mestiere, il nostro è quello di raccontare storie, fatti, possibilmente con una documentazione che li accerti. Poi chiaramente chi fa politica in questo momento, governa il paese, giustamente per motivi anche di propaganda e di consenso, declina una narrazione di un'Italia che non c'è, cioè un'Italia che si è rimessa a correre. La realtà che racconto in questo libro Ultimi e che racconto tutti i giorni sul sito che dirigo Non Sprecare è quella di un paese che in realtà in questi ultimi 20 anni non ha fatto altro che arretrare in tutti i settori, anche dove eravamo primi al mondo per l'importanza del nostro brand turismo ed eravamo, pensate, il primo paese al mondo dopo gli Stati Uniti che per numero di brevetti depositati presso l'ente di ricerca americano. Adesso siamo gli ultimi tra gli europei. Questo cosa significa? Significa che il paese, dove pure ci sono tutta una serie di eccellenze, di scuole, di ospedali, di università che funzionano benissimo, invece che allinearsi ai target alti, ai livelli e alle quelle che si chiamano normalmente buone pratiche, si è allineata alle pratiche peggiori. Per capirci, nel libro, perché per ognuno di questi capitoli ci sono poi le storie dell'Italia che funziona, i modelli, diciamo, nel libro a proposito della sanità si racconta che il Policlinico di Bologna, Italia, 5 pronto soccorsi che funzionano H24, non ha aspettato il ministro, la riforma, la rivoluzione, le solite cose che sentiamo per fare la spending review, l'hanno fatto da solo, tagliando non orizzontalmente, ma eliminando sprechi, eliminando inefficienze, facendo gli appalti più trasparenti, eccetera. Ed è un ospedale che ha target che funzionano come negli ospedali inglesi e francesi. Nello stesso tempo, nello stesso periodo, un anno, a Napoli hanno pensato bene, certificato dalla Corte dei Conti, di inventarsi 1593 posti di primari inutili. Allora, il punto è: o la sanità italiana si allinea a Bologna o la sanità italiana si allinea a Napoli. Ahimè, il libro dimostra che ci stiamo allineando ai modelli peggiori. Ahimè, il libro, ripeto, non risparmia la responsabilità, non solo quelle pubbliche ma anche per le private, perché se pensiamo al problema del technology transfer tra i punti di eccellenza della ricerca, che pure ci sono in Italia, e l'andamento invece testimoniato, ricordato anche dalle parole di Antonio Galdo adesso, dei brevetti depositati da parte delle imprese, beh, significa che esattamente è tra questi due punti che non funziona un collegamento operante operativo, e in questo caso bisogna parlare anche di difetti delle imprese, ecco, non solo della struttura pubblica. Ma te ne aggiungo un terzo che fa parte di questa catena di debolezza, ed è il fatto che a fronte, come racconto nel capitolo del libro Ultimi dedicato alle imprese e al risparmio, di un livello di risparmio altissimo che abbiamo, che non si è fermato neanche negli anni della grande crisi, per capirci, quindi dal 2008 a oggi, questi soldi finiscono dovunque, ma non nel circuito produttivo delle imprese. Cosa rimprovero alle imprese nel libro? E qui devo dire che la prima fonte, attenzione, è la Banca d'Italia, che in un documento lo spiega benissimo. Quello che un tempo era un elemento di forza del sistema produttivo italiano, cioè la piccola impresa flessibile, oggi è un elemento di debolezza strutturale, incompatibile con il sistema della competizione globale. La Banca d'Italia lo spiega benissimo, dicendo che in tempi normali le dimensioni non sono decisive ai fini della competizione. In tempi eccezionali come questi, essere troppo piccoli significa non avere le dimensioni giuste per fare massa critica, significa non avere le dimensioni giuste per fare la ricerca, significa non avere le dimensioni giuste per essere competitivi, parola che vedo che nel mondo di Confindustria si ripete spesso. Dopodiché, il problema delle dimensioni è legato al fatto che troppi imprenditori, anche bravi, anche intelligenti, sono legati a una cultura dell'impresa da secondo Novecento, cioè l'impresa del padre padrone con il ragioniere e il tecnico che tengono in mano il controllo dell'azienda, e quindi fanno fatica a crescere, e hanno anche poi il noto problema del ricambio generazionale. In questo modo si condanna l'impresa a due opzioni. La prima, essere venduta, cosa che sta avvenendo ahimè per molte aziende, la seconda è uscire dal mercato e quindi fallire. Seconda cosa sulla quale bisognerebbe fare una riflessione, e qui non c'entra tanto la politica. Aspetta, però, c'è una cosa che però, siccome in questo sì, ci tengo, e anche tu ci torni al libro, ho visto, il problema non è tanto il peso sulle classi di impresa italiana della proprietà, nel senso che noi abbiamo una proprietà familiare che supera l'85% del totale dell'impresa italiana, però se andiamo a vedere negli altri paesi, in realtà anche in Francia siamo 80%, nel Regno Unito voglio dire siamo sopra l'80%, il problema non è la proprietà, il problema è di una proprietà di impresa che crede ancora di potere, dovere, volere essere in condizioni di esercitare la gestione dell'impresa, che è la governance, è, esatto, la ownership, come si dice, la ownership è la governance. Ecco, questa è la cosa di fondo, perché noi non siamo contrari, cari ascopiccoli imprenditori italiani, a dire dovete vendere, fondervi e fottervi con le vostre mani, neanche per idea, ma dovreste aver capito che altro conto è invece una proprietà totalmente e solamente nelle vostre mani, non equilibrata da meccanismi di disciplina di mercato, e soprattutto la gestione dell'impresa, che richiede competenza, risorse eccetera, che sono manageriali, e tu questo anche lo tiri fuori proprio nel libro, Antonio. Assolutamente, sono due livelli completamente diversi. La proprietà, ed è verissimo, è un nostro elemento di forza come sistema paese, il capitalismo familiare. Poche balle, è un capitalismo vitalissimo, fortissimo, che nella proprietà va assolutamente difeso. Altra cosa è la gestione, quando appunto c'è una sovrapposizione di ruoli, ci sono i passaggi generazionali, purtroppo spesso i figli non sono all'altezza dei padri, e si crea il cortocircuito che impoverisce le aziende. Dopodiché un altro elemento fondamentale per far ripartire davvero l'economia è l'elemento di tirare fuori dai materassi questi soldi, il famoso patrimonio finanziario degli italiani, che è una grande ricchezza e che evidentemente non riusciamo a mettere nel circuito delle attività produttive. Devo dire anche con buone motivazioni, perché io lo dico assumendomene la responsabilità, nel libro è testuale, credo che la borsa italiana sia un catino nel quale quello che prevale sia l'insider trading e i giochi di potere, cioè non è una borsa orientata a coltivare, difendere e tutelare in qualche modo il risparmio, è una borsa troppo banco dipendente, cioè concentrata nelle mani delle banche e quindi che dipende dalle fluttuazioni delle banche, dove c'è una scarsissima presenza del capitalismo reale italiano. Domandiamoci perché, e domandiamoci questo, quanto lo paghiamo. Per un cittadino americano, per un cittadino inglese è normale avere le azioni della Apple o di un'altra azienda come fonte di risparmio, gli assicurano un dividendo, gli interessa poco che il titolo oscilli nel corso di un anno, sono degli investitori, come dire, di lungo periodo, e i nostri risparmiatori invece alla borsa, come dire, guardano con enorme diffidenza. Aspetta, Antonio, ti interrompo perché dobbiamo tornare tra un minuto. Io voglio rendere atto a Antonio Galdo, quando si occupa del capitolo del risparmio della finanza, di fare ciò che non è più diventato consueto tra i miei colleghi, cioè di porre il problema dei regolatori finanziari e bancari italiani. Ci sono dei numeri comparati, per esempio, su cosa ottiene la Consob per sanzioni rispetto alle autorità dei mercati finanziari degli altri paesi, cioè le poche decine di milioni di sanzioni che incassa la Consob rispetto ai miliardi invece che incassano le altre autorità di regolazione dei mercati finanziari, e tra i pochi, e per fortuna che esistono ancora quelli come Antonio Galdo, che dicono solo l'Italia può mettere alla testa della Consob un politico come Vegas, sarebbe impossibile negli altri paesi, nei grandi altri grandi paesi. Ecco, a me che ci siano colleghi che ancora capiscono che il nostro dovere è anche quello di puntare il dito contro l'autorità di regolazione, si chiamino Consob o Banca d'Italia, quando abbiamo delle evidenze che ci sono delle cose che non vanno, questo mi riempie di gioia e soddisfazione, perché io sperimento tutti i giorni invece la pressione dall'alto, perché questa roba non si faccia in nome di un, non riesco a capire quale, non presunto sono tu, interesse caro, nazionale. Non sono tu, caro Oscar, le autorità sono un pezzo della istituzione di questo paese e dobbiamo attaccarle se non difendono le istituzioni. Mi spiace, ma questa è una cosa, devono stare dalla nostra parte, se stanno da qualche altra parte non è la mia, mi dispiace. Lo so, caro Alberto, però capita oramai anche a voi professore universitario di toccare con mano, che quello che dico è così, da quello che so. Comunque, detto tutto questo, torniamo tra un minuto. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia, le vesti. della belva. Eccoci qua, tornati in diretta con noi Antonio Galdo, autore, tra l'altro, ma insomma lo spunto è questo oggi, di un libro per Einaudi, ultimi, sull'Italia nei ranking internazionali comparati, perché numeri alla mano è opportuno riflettere in queste 110 pagine su come stiamo andando indietro, non stiamo andando avanti, ed è una deriva di lungo tempo, non ce la prendiamo coi governi in carica adesso, però è una deriva ventennale che viene prima dell'euro e così via, e con lui stiamo parlando di questo, di un po' di esempi concreti. Caro Alberto, è importante o meno anche dal punto di vista metodologico? Esatto, io volevo chiedere ad Antonio una riflessione sul metodo, no? Lui ha detto ultimi e io devo dire una cosa, il prossimo libro Antonio lo chiami primi virgola se si volta la fila, nel senso che dobbiamo cambiare verso e quindi no, però io chiedo un commento importante, l'idiosincrasia di questo paese per le classifiche, per la misurazione, per il dato quantitativo, per l'elemento di comparazione, no? Noi che da ordinali diventiamo cardinali, non nel senso ecclesiastico del termine, anche ma troppi quelli di cardinali, esatto. Ce n'è sempre troppi. Ma di numeri sparati sostanzialmente a caso senza un senso logico. Ti chiedo che fatica si fa a far leggere e interpretare correttamente le statistiche, perché diciamo, questo è lo scopo per esempio delle istituzioni internazionali, no? Consentire la comparazione anche per questioni di apprendimento e di adozione delle buone pratiche di cui parlavi. Quando in Italia l'atteggiamento dei media è diventato le comparazioni non rispettano l'Italia. Ah, assolutamente, sono dei digratorie, non colgono l'eccezione straordinaria. Quindi che significa dire che le comparazioni non si possono fare? Non si possono fare perché siamo diversi. Antonio, no? Quindi... prego, dai una risposta, se no allora, parliamo. Antonio. Innanzitutto vorrei ricordare che Platone diceva con i numeri si governa, cioè i numeri sono fondamentali per capire dove si è e dove si vuole andare. Quello che è importante, e smontiamo una volta per tutte questa storia dei catastrofisti, dei gufi, eccetera, eccetera, è che, come dicevo, esistono dei buoni modelli che non riusciamo però a far diventare sistema. Ecco perché ci dobbiamo porre questa domanda, perché la fatica di interpretare i numeri è legata al fatto che noi non vogliamo valutare e non vogliamo affermare il merito. Faccio due esempi molto concreti. Esiste in Italia una legge, meglio rubare, punto. Cioè in Italia è meglio rubare, è meglio per un imprenditore fare il furbo e non onorare le cambiali, è meglio per un cittadino rubare. Perché? Perché la giustizia, tra le prescrizioni, i tempi della giustizia civile, eccetera, eccetera, alla fine la fai franca, ok? Però esiste un tribunale, Torino, che fino a prova contraria è in Italia, dove un presidente di questo tribunale è riuscito, e si chiama Barbuto, quindi dico il nome, a mettere in campo un metodo attraverso il quale oggi la giustizia penale e civile a Torino funziona come a Berlino, a Londra, a Parigi, eccetera. Domanda, attenzione, questo metodo è diventato talmente importante che, come racconto nel libro Ultimi, viene affermato a livello europeo come format, cioè l'Unione dice copiate da Barbuto, ok, il ministro della giustizia, anzi prima di lui il premier Renzi, telefona al signor Barbuto e dice vorresti venire a lavorare al Ministero della Giustizia per aiutarci a diffondere questo tuo merito in tutta Italia? Barbuto ci ripensa, eccetera, alla fine accetta. Sono andato a trovarlo al Ministero, l'ho trovato circondato da carte. Che cosa ho scoperto? Quello che prima dicevate, la fatica a misurarsi con la realtà e con i numeri, a riconoscere il merito. Che le resistenze maggiori del signor Barbuto a diffondere il suo metodo che potrebbe cambiare il funzionamento dei tribunali della giustizia in Italia arrivano, udite udite, dal Consiglio Superiore della Magistratura, certo, e dall'Associazione Magistrati. Certo. Lo dico con chiarezza, il Consiglio Superiore della Magistratura pretende che perfino nell'organizzazione degli uffici della giustizia, che non dipendono da loro, ma è un problema di pubblica amministrazione, ci deve ficcare il naso. E questo sta fermando Barbuto. Antonio, ti ricordo che diversi anni fa un ministro della giustizia che aveva due demeriti agli occhi dei magistrati, primo apparteneva al governo di centrodestra, secondo era un ingegnere, non un giurista, cioè l'ingegner Castelli, pensò di mettere in piedi una banca dati sulla produttività comparata. Orrore. Della magistratura. I dati. E l'impostazione del ministero fu: naturalmente bisogna farla fare a terzi indipendenti. Fece una gara, lo hanno travolto con indagini. Non è mai partita quell'idea, perché l'ANM e CSM dissero: non esiste che terzi possano misurare da fuori in termini comparati la nostra produttività. Ecco, questo. E questa è la condanna ad essere ultimi, perché come succede nella giustizia e come vi ho raccontato con nomi e cognomi, succede nella scuola. Vi do uno spunto per una prossima puntata, perché secondo me è paradigmatico. Sapete bene che nella scuola la grande novità presentata come una rivoluzione di questa riforma è stata quella di introdurre un pezzetto, stiamo parlando di un totale di 200 milioni per tutti gli insegnanti italiani, di stipendio legato al merito e alla valutazione degli insegnanti. E invece? Tenete presente che in Europa ci sono moltissimi paesi dove un terzo dello stipendio è legato. E qua siamo a poco più di una briciola. Ma che cosa sta succedendo? Sentite. Benissimo, sta succedendo questo, che A, questi soldi ancora non si sono visti, ma fin qua siamo in Italia, è tutto normale. B, perché siamo in chiusura? Ci sono i comitati di valutazione, il sindacato ha alzato il dito e ha cominciato a dire, un momento, questo è salario accessorio. Si deve trattare, Antonio, noi ti rinvitiamo di sicuro. Grazie. Ci sentiamo dopo Generale Radio intanto. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati in studio in diretta dopo Generale Radio qui dallo studio di Milano di Radio 24, compare dei conti della Belva. Anzi, io dirò di un'ora in poi gli allegri compare dei conti della Belva. Così certo, almeno... ma siamo allegrissimi, siamo dei gufi allegri, che altro dobbiamo fare? Oh, io questa settimana sono allegro. Sei allegro, per motivi miei, ma sono allegro. Ecco, va bene. Ok, no, va bene, diciamola sta cosa. Ogni tanto capita anche a Mario Seminario di essere allegro. No, perché su Twitter c'è stato una persona che mi ha detto: sorridi di più ti farebbe bene. Caro mio, io sorrido dentro, diciamo, questo è il punto. Allora, qualche ascoltatore con le telefonate, prima di passare al nostro secondo capitolo della trasmissione di questo sabato, e che è dedicato allo smart working, come abbiamo detto, tentiamo di capire anche cosa vuol dire dietro la bella parola inglese, questo lavoro intelligente, e prenderemo spunto da questo accordo in Barilla sui 1600 colletti bianchi di Barilla, e però prima qualche opinione di ascoltatore. Sentiamo Cesare che ci chiama da Bologna. Cesare, prego. Buongiorno e saluti a voi. Vi invitavo, se non in questa trasmissione, che semmai in una prossima, a dare un'occhiata un po' più analitica al rapporto dell'istituto tedesco, che è stato pubblicato anche un paio di giorni fa su Sole 24 Ore, che considera aggregati il debito cosiddetto implicito e cosiddetto esplicito italiano rispetto al prodotto interno lordo, perché questo istituto nel passato è stato fustigatore dei nostri costumi in maniera piuttosto cruda e anche dei costumi tedeschi in quanto tali, e l'avere reso chiare note, chiari numeri sulla situazione che in prospettiva nel medio lungo termine, stando così le cose, mettono l'Italia in una luce meno grave, meno cupa rispetto a quanto è consueto ascoltare, avrebbe bisogno di non essere liquidato come avete fatto all'inizio della trasmissione, con tre parole, ma una piccola analisi di riscontro dei numeri. Cesare, e però lei, la domanda che le faccio è: leggendo, lei ha capito qual è il criterio per cui si arriva a quell'implicito 57? È un insieme di fattori che tengono conto. Ma erano indicati lì? Allora, dalle informazioni che ho trovato su Sole 24 Ore, no, ma andando a guardare in internet un pochettino da altre parti, c'è un'analisi che è fatta certo. abbastanza dettagliata. Per carità, è un'indagine attuariale sul peso spalmato in termini di sostenibilità finanziaria alla luce del passato su risorse di risparmio patrimonio delle diverse categorie, sulle diverse componenti attuariali di entitlements. Ok, d'accordo. E ma io non smentisco questo, dico solo che presentato così, senza spiegarlo, perché lì la spiegazione non c'era, mi dispiace. E col numeretto 57 rispetto agli altri, io credo che sia giornalisticamente improprio. Mi prendo la responsabilità di quello che dico, ecco. Però è la mia opinione, ecco. Cioè, non nego che dietro ci sia un lavoro, non ci torneremo. Comunque è una giusta riflessione quella che faccio. E poi posso dire una cosa, perché i mercati, diciamo, malgrado queste metriche così fantasmagoriche, eccellenti, eccezionali, continuano ad imputarci una rischiosità superiore complotto, a quella di... quindi si sbagliano. Le agenzie di rating che si sbagliano sono quasi certo. I regolatori internazionali, le istituzioni internazionali e i mercati finanziari che continuano a sbagliarsi. Cioè, se noi guardiamo il debito implicito italiano, ad esempio come fatto dalle passività potenziali pensionistiche, un grandissimo beneficio, certo, e miglioramento è stato fatto, indovinate con che cosa? Con la legge Fornero. Vi piace questo concetto? Ecco, no, però signora, c'è mezzo paese che urla e l'altro che è impallidito. Dovrebbe quel fare miglioramento un monumento a essa Fornero. È stato fatto con la legge Fornero, che adesso sta venendo progressivamente sgretolata per altre motivazioni. Ma io dico una cosa, io non considero il mercato un feticcio, però se la rischiosità implicita del sistema paese Italia dai mercati viene sistematicamente considerata superiore a quella di altri paesi con cui vorremmo confrontarci, bisogna indagare questo, so, non fare reverse engineering. Però, e andare Mario, a cercare, guarda, delle metriche tali per Mario, cui tu sbagli candeggio. È inutile che ci illudiamo, il successo del governo Renzi è quello su cui Tremonti voleva la stessa cosa, infatti Forti scriveva per lui, scriveva le stesse cose. Renzi è riuscito a ottenerla questa cosa, cioè che i media italiani abbiano aderito alla cosa per cui bisogna imporre al mondo uno dello storytelling diversi. Il giudizio nazionale ieri emesso dalla Commissione europea su diversi paesi, la parte relativa all'Italia, sui giornali italiani oggi o non c'è o è liquidata come una rottura di scatole e così via. Cioè l'aria è cambiata. Renzi ha imposto ai media italiani questa sua maniera di fare l'agenda setting e gli italiani pensano in buona fede, in ottima fede, ma probabilmente hanno ragione, basta piangerci addosso. È il mondo che applica alla finanza, all'impresa, alla finanza pubblica, delle metriche sbagliate. E la cosa che Renzi rilancia sulle banche con i derivati che tu hai ricordato all'inizio, sì, no? Sulle anche due lì, banche anche lì sbagliano gli investitori internazionali. A dire, no, quale buyback, io me li tengo i tuoi titoli. No, esatto, sbagliano tutti. Però bisogna rispondere, secondo me, a chi come Cesare ci dice dovete approfondire. Sì, approfondiremo, perché non ce la vogliamo liquidare con una cosa dicendo abbiamo ragione noi. Noi siamo convinti di fare un servizio invitando tutti a guardare i dati veri, però lo storytelling diverso è diventata la sfida vera in questo paese. Quindi però, grazie Cesare. Oscar, devo dire, è tornato il nostro ascoltatore che fa il resend, quello, il caro ascoltatore 557, adesso do le ultime cifre, poi poco alla volta darò anche le altre, e dice andate a casa vecchi tromboni e cariatidi, sapete solo parlare male, buffoni. Questo è esattamente vecchi, che è lo stesso delle ultime settimane, ma perché è la sua firma per farsi riconoscere da e te. E però lo stesso ascoltatore dice basta parlare male del governo Giannini, quindi tu sei più d'uno e poi smetti di inculcare odio. Questo me lo ricordo chi è 557 con questo resend, grazie di esistere. No, perché gli inculcatori, vi ricordate, è sempre lui. Questo ci vuole un bene dell'anima, questo ascoltatore. Assolutamente. Noi, meglio delle ragazze del bar Rendezvous di dove diavolo è, ecco. No, è di Caserta. Portico di Caserta. Esatto. Senza di noi il sabato mattina del 557 sarebbe vuoto e triste. Comunque noi ci teniamo le ragazze del rendezvous. Perché noi valiamo più di 1000 trombate e 557 evidentemente non è ancora arrivato a quella trombata che gli serviva ad evitare di fare il resend. 5-7, io ti voglio bene e ti ringrazio. Pierangelo da Verona, Pierangelo. Buongiorno Danilo e compagni. Allora, volevo portare proprio una conferma a quello che dicevate nella prima parte della trasmissione, del fatto delle piccole e medie industrie che non si evolvono, che nessuno prende il testimone una volta che muore o roba del genere, il fondatore, i figli non vanno, cosa. a San Bonifacio di Verona, no, una ditta a ferro lì, 2300 dipendenti, mi sembra una buona ditta che è sempre stata a un ottimo livello. Che succede? 2 anni e mezzo fa circa è morto il titolare, 80 anni, dunque 80 anni era ancora lì che teneva duro, no? Ha 2 o 3 figlie, nessuna vuole impegnarsi, forse i mariti hanno altri lavori o cosa che, oppure hanno fatto una vita nel lato. E quindi che fine fa? Niente, sono in cassa integrazione da quando è morto, non tutti, parziale, tira avanti e probabilmente andrà alla svendita la ditta. Capisci? Il problema del passaggio generazionale è un problema da sempre. Però va preparato prima di morire, se posso dire. Cioè, il vero imprenditore non può dire viene dopo la mia morte, qualcun altro ci pensa. E non deve guardare solo ai figli, ma deve guardare al merito e alla promozione di chi in azienda, anche fuori dall'azienda, ha interesse e professionalità in quel senso. Quindi dobbiamo mettere in circolo le professionalità, signori. Torniamo tra un minuto con Barilla, e da Barilla una riflessione sullo smart working. Della belva. Eccoci qua, in attesa che mi diciate che i nostri ospiti sono arrivati, perché per il momento non li vedo sul terminale. Allora, vicenda da cui partiamo è quella dell'accordo per 1600 colletti bianchi in Barilla di smart working, e la domanda è, cerchiamo di capire bene in che cosa consiste, a quanto si può applicare l'idea del telelavoro da casa. Come funziona la sua gestione? Chi comunica a chi oggi lavoro da casa? E per quanto? Chi certifica le occasioni in cui si può fare? Allora, noi abbiamo pensato innanzitutto di rivolgerci a chi un pezzo del sindacato, che i sindacati hanno firmano queste intese, ovviamente, per farci spiegare concretamente come funziona la cosa. Quindi Luca Ferrari, che è segretario della Federazione CGL Parma, della Federazione Italiana Lavoratori dell'Agroindustria, grazie di essere con noi stamattina. Come funziona questo accordo in Barilla? Che giudizio ne date? A chi si applica? E poi soprattutto chi lo gestisce in concreto? Intanto buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito. L'accordo in Barilla funziona prevalentemente, intanto è volontario, su base volontaria ogni singolo lavoratore dà la disponibilità o meno a lavorare da casa per 4 giorni al mese massimo, salvo alcuni casi particolari che abbiamo inserito nell'accordo sindacale, che diventano 8 giorni, ed è comunque sempre in rapporto con il suo responsabile aziendale, che è l'azienda che decide di volta in volta se quel tipo di professionalità può essere svolta anche in luoghi diversi dall'ufficio, e anche con le tempistiche, con le modalità che vengono concordate. Però è il lavoratore che dice io vorrei, lo dice un paio di giorni prima, non so quanto, cioè lui dice va bene, ok, fallo, così. Sì, in modo molto flessibile. Molto flessibile, cioè poco formalizzato. Sì, è un rapporto diretto tra il lavoratore e il suo responsabile, all'interno di un regolamento aziendale, di un accordo sindacale che stabilisce il contesto. E le condizioni per poterlo richiedere sono quelle di avere figli piccoli, anziani? No, non ci sono condizioni. Ah. Qualsiasi lavoratore lo può richiedere. Chiaramente deve svolgere un'attività lavorativa che permetta l'attività non dal luogo di lavoro. Quindi gli amministrativi finiscono per essere. Sì, sostanzialmente. Però Luca, se posso, sì. È la prima volta, e questo è un bel segnale, che un'azienda industriale come Barilla, perché lo smart working è diffuso fra le aziende della tecnologia, dei servizi, è un bel segnale che un'azienda industriale si apra a questo, perché qui bisogna riconoscere il fatto che Barilla ha colto questa opportunità anche per lavori non necessariamente solo amministrativi, a marketing, relazioni col mercato, cioè si sta ampliando la gamma di funzioni aziendali che accede allo smart working. In questo senso, come avete trovato la cultura dentro l'azienda in termini organizzativi rispetto a questa opzione? Ma allora, probabilmente i lavoratori erano già pronti a questo tipo di scelta. L'azienda si è dotata di strumenti tecnologici, ha fatto tutto un percorso per poter utilizzare questa opzione. Tra l'altro un percorso che ci ha permesso di inserire un capitolo sul lavoro agile anche all'interno del contratto nazionale dell'industria alimentare, che è stato rinnovato poche settimane fa e che ci permette di inserirlo nelle piattaforme rivendicative dei principali gruppi italiani. Poi andremo a vedere quello che accadrà. Sicuramente la Barilla ha avuto la capacità... Posso fare una domanda? Siete il confronto su queste forme di lavoro intelligente lo fate in maniera trasversale tra categorie e su questo quindi c'è uno scambio per tentare di metterlo orizzontalmente sempre di più al centro della trasformazione delle imprese del lavoro in tutta Italia? Oppure siete ancora divisi che ogni associazione e categoria si fa il suo modello di riferimento? Allora, chiaramente noi siamo abbastanza vincolati dalle controparti con cui discutiamo, quindi per quanto riguarda il settore alimentare noi, la nostra categoria, si confronta con queste controparti, però dal momento in cui abbiamo iniziato a parlare di smart working abbiamo guardato quello che succedeva al di fuori del settore alimentare e abbiamo interloquito con categorie che queste cose già le facevano, ma anche settori come metalmeccanici, chimici, tecnologie, dove qua e là esistevano esperienze da cui abbiamo anche preso spunto e adesso che la cosa si è diffusa e si sta diffondendo nel settore alimentare veniamo contattati da altri, esatto, da altri settori che ci chiedono come buona pratica da seguire. Esatto. Dai, fammi vedere qualche numero importante: 8.000 addetti in Barilla, 1.600 dipendenti coinvolti nel progetto Smart Working, 1.200 che hanno usufruito dell'opportunità di lavoro a casa, quindi tre quarti di quelli coinvolti. È per quello che vorrei sfatare il mito che è un lavoro da segreteria o da amministrazione, è in realtà un'opzione molto utile anche per chi fa vendita, per esempio, per chi fa assistenza ai clienti. Cioè sono molti più i processi che possono essere ripensati, però deve partire da un intelligente ridisegno dei processi organizzativi, non è una come dire una gentile concessione, no, capisci? Cioè, è un ridisegno del modo di produrre insieme. Implica che sindacato e l'azienda, il sindacato debba chiedere e l'azienda deve verificare, insomma, anche una rivisitazione profonda di come è organizzata l'azienda per venire incontro alla possibilità che cose simili si estendano. È uno smart organization prima, esatto, di diventare smart working. Ci deve essere da parte dell'impresa un investimento in questa direzione, perché quando le cose si riescono a costruire diventa una buona flessibilità che i lavoratori poi utilizzano. Tra l'altro i primi dati, perché comunque la commissione si è appena insediata e dovrà ancora lavorare, sta dimostrando alcune cose che magari in un primo momento ci hanno anche un po' spiazzato, perché per esempio in Barilla noi abbiamo visto un utilizzo inversamente proporzionale all'età del lavoratore. Quindi, che uno si aspetterebbe il contrario, anch'io devo dire, esatto, come voi, esatto, mi sarei detto esatto. Il contrario. Noi ci aspettavamo che i giovani, no, fossero in un qualche modo i più, quelli che rispondevano più velocemente a un modello. E invece modello... no, chissà cosa vuol dire questo, no. Effettivamente. Ma io diciamo qualche commento, poi sentiamo magari il professor Corso. La verità è che i giovani hanno bisogno di stare in azienda perché hanno bisogno di costruire reti relazionali e di apprendere. Ah, quindi c'è un bisogno fisico di condividere. Chi ha già più maturità ha oggettivamente un'utilità marginale decrescente nel tempo speso in azienda e secondo me è più efficiente anche perché ha uno stock di competenze che può essere ricollocato. Inciso naturalmente che riguarda tutti, il caso può determinare che se sei uno sfigato che risiede in un'area a coefficiente di banda digitale bassissimo non sei in condizioni fisiche di poter partecipare, sì, però fammi sfigizzare, non è che serva tantissima banda per fare smart working, non è che fare roba in HD, no, cioè, basta oggettivamente un po' di... su questo però se è possibile, noi avevamo chiesto come organizzazione sindacale che l'azienda si facesse carico anche delle connessioni dei lavoratori. Ah, voi chiedete questo non lo sapevo. Almeno, cioè, nel senso, visto che comunque serve una DSL, non tutti i lavoratori hanno una connessione a DSL e c'è qualcuno che non fa una almeno la DSL. No, ho capito. Certo, ho capito. Avevamo chiesto anche questo, che al momento ancora non c'è, ma... Lo dicevo con qualche, per buttare un amo anche al fatto che nella settimana, tra i tanti numeri che sono usciti, c'è stato anche un ranking digitale che non è stato molto favorevole per l'Italia, che si dica, sì, anche certo. Mi pare che ci sia la grande rivoluzione della digitalizzazione in corso. Sono sempre delle rivoluzioni annunciate, ma poi i risultati il ranking dello smart working italiano ci mette comunque 25esimi su 28, cioè giusto per poi sentiamo. Però, sentiamo se i responsabile scientifico dell'Osservatorio appunto sullo smart working del Politecnico di Milano, Mariano Corso, che è con noi. Buongiorno e grazie di essere con noi innanzitutto, Mariano. Buongiorno, grazie a voi, grazie dell'invito. Allora, grazie essere con voi. Visto che voi fate, avete un osservatore dedicato, A, si sta diffondendo e quanto lentamente? Soprattutto B, secondo voi, in termini comparati, quali sono gli ostacoli maggiori perché questa cultura e pratica organizzativa del lavoro intelligente si possa diffondere di più nell'ambito di un'impresa italiana? Bene, allora, prima cosa, in termini di diffusione si sta diffondendo in modo velocissimo negli ultimi due anni, nella medio-grande impresa, molto meno nella piccola, per una serie sostanzialmente di retaggi culturali, proprio. Poi magari ne parliamo un attimo. Comunque, nella grande impresa, oggi un'impresa su due sta introducendo dei meccanismi di flessibilità. Poi questi possono essere definiti smart working, perché sono iniziative strutturate, in un numero di casi che noi abbiamo valutato, abbiamo stimato attorno al 17%. Quindi comunque tanto, in pochi anni c'è stata un'esplosione di interesse, secondo me anche un fattore moda che poi di cui noi siamo contenti avendo mode positive, no? Mode positive. Assolutamente, quello che mi fa paura è un po' una superficialità poi nell'intendere questo o una deviazione. Mi permette due elementi rispetto alla bellissima e interessante discussione che abbiamo fatto, no? Noi abbiamo, vada alle critiche, non si preoccupi. Abbiamo accompagnato Barilla, no? Anche in questo fenomeno, come molti altri. E, allora, lo smart working non va pensato, lei chiedeva a chi si dà, magari a quelli che hanno bambini piccoli, eccetera. Se uno pensa allo smart working come semplicemente una forma di telelavoro alla fine, è come un giusto strumento per conciliare lavoro e vita professionale, cioè lo relega, fa sì che poi le aziende lo vivano come un benefit, una concessione, o che i sindacati lo recriminino come un diritto. Per quanto intendiamoci, la mia opinione è che l'organizzazione di forme sempre più estese, cofinanziate, possibilmente meno pubbliche possibile, di welfare aziendale, io la vedo come uno sviluppo straordinario, non solo delle relazioni dei sindacati, ma della maniera di fare impresa e della maniera per chi è iscritto ai sindacati di capire che non sarà sempre solo la mano pubblica a poter risolvere. Quindi io vorrei dei contribuzioni in questo. Ricordo a tutti che siamo ancora in attesa della circolare attuativa delle norme più ampie di decontribuzione stabilite in legge di stabilità, e siamo già alla fine di febbraio, e per le imprese è sempre difficile poter poi preordinare le cose, anche dal punto di vista contrattuale, quando lo Stato dice una cosa e non lo fa. Ma comunque era solo per spiegare, perché lei ha ragione, certo. La forma del lavoro agile non è solo questa roba qua, è molto di più. Assolutamente, soprattutto quello che noi abbiamo vissuto in questi anni è che a differenza del telelavoro, lo smart working si fa e si sta diffondendo perché è un ottimo affare per le imprese, cioè le imprese ci guadagnano, i lavoratori ci guadagnano, e quindi da un certo punto di vista io sono molto contento del decreto, delle prime normative, ma allo stesso tempo temo un po', cioè dire, lasciati all'autonomia e agli accordi tra le parti si stanno creando delle situazioni di equilibrio fantastiche. Dobbiamo rimuovere gli ostacoli e lasciare che si arrivi a queste soluzioni, che sono soluzioni a somma positiva. Meglio farle quindi con i 100 fiori della trattativa territoriale nelle aziende, lei dice, piuttosto che con gabbie di legge. Certo, assolutamente. Io credo che le norme debbano essere quelle minime, soprattutto per evitare quelli che oggi sono oggettivamente degli impedimenti. Tutti i vari dubbi su quella che è l'infortunistica, la sicurezza sul lavoro, il fatto che i contratti possano essere. Se noi lasciamo lavoratori, meglio se con i loro sindacati che peraltro stanno avendo in questo momento su questo un ruolo estremamente positivo. Anche a me sembra, devo dire la verità. Io critico il sindacato, però no, infatti, non significa nulla. Se posso, cioè, Mariano, adesso dobbiamo spezzare una lancia a favore del sindacato. Ciao Mariano. E invece dare un bastone in testa agli imprenditori, perché il vero problema è la testaccia dura di chi coordina il lavoro, che non ha ancora sviluppato un meccanismo di coordinamento, delega, controllo e misura del lavoro, tale premessa, come sai, organizzativa essenziale al di là della tecnologia per fare smart working. Tant'è vero che mi stai dicendo che lo fanno le aziende managerializzate, esatto, quasi con i processi formalizzati, e non è telelavoro, è lavoro flessibile, esatto, lavoro in tempi e spazi, sì, però diversi. Questo significa immaginare che c'è bisogno nelle imprese di una generazione di gente che fa HR che non è fatto di gestione delle buste paga esternalizzate, perdonate, perché di questo stiamo parlando. No, che fa disegno dei processi e questo, promozione di delle questo competenze. Stiamo parlando. Ecco, due commenti su questo, perché l'azienda ci guadagna, i tuoi numeri, il tuo osservatorio lo dicono chiaramente, più 30, più 35% di produttività, meno 60% di assenteismo, sono numeri, signori, eh? Perché allora la testaccia dura degli imprenditori italiani non lo accetta? Aspettate un secondo, io voglio chiedere a Luca Ferrari, a CGL, Luca Ferrari a CGL non si aspettava di essere invitato stamattina dalla radio di Confindustria e da tre fottuti liberisti che su questo tema danno in testa alle imprese e riconoscono il mese. Succede, vedi? Vede Ferrari, lo dica ai suoi compagni, perché noi siamo gente che riserva delle sorprese, ma immagino che lei sarà un po' d'accordo con quello che diciamo, però. No, sì, sono d'accordo. Tra l'altro vi conoscono, vi ascolto, vi seguo. Ah, ecco, sa che siamo un po' tanto, fuori linea. Ogni tanto qualche cosa giusta la dite anche voi. Ah, oh, meno male. Ogni tanto, No, no, lo so. Non la voglio compromettere con un accordo troppo esplicito. Però su questo, insomma, bisogna cambiare. Su questo tema c'è da dire che si misurano anche la maturità delle imprese, perché... Effettivamente quando noi andiamo a chiedere la flessibilità buona per il lavoratore, noi facciamo centinaia di accordi sulla flessibilità che serve all'utilizzo degli impianti. Qui a Parma nel settore alimentare ne abbiamo di tutti i colori, 21 turni, 18 turni, scorrimento, in tutti i modi possibili e immaginabili. Quando andiamo a chiedere la flessibilità positiva per il lavoratore e lo smart working è un esempio di flessibilità positiva che le nuove tecnologie permettono, troviamo ancora delle resistenze. E però, noi con i numeri in questo stesso accordo, se mi è permesso, sì, per esempio, le ore di smart working possono essere fatte a mezze giornate, noi avevamo chiesto anche un utilizzo ancora più spinto ad ora. Per il momento ci hanno detto di no, ma il monitoraggio continuerà, perché evidentemente bisogna provarle e una volta che si provano non si può più tornare indietro, perché a questo punto sia i lavoratori che l'impresa vedono dei risultati che effettivamente E qui vi devo punzecchiare invece la cultura della metrica, dell'osservazione quantitativa del comportamento organizzato, è una cultura che il sindacato invece deve incominciare a masticare con grande laicità e apertura, perché aiuta tutti, capire, guardare i numeri, come dire, studiare per deliberare è un tema che non è solo einaudiano, ma è anche sindacale dal mio punto di vista. E ci vogliono... Poi dopo c'è sempre chi la misura in un lato, no? Soltanto in un senso, non nell'altro. Esatto, ed è proprio questo che va evitato. Però per questo bisogna prendere un po' di giovani ricercatori delle metriche, per così dire. Io sono convinto che sia le associazioni sindacali che le associazioni di impresa da questo avrebbero da guadagnare. Esatto, perché lo smart working produce dati e i dati sono la nuova linfa per il governo delle organizzazioni. Per evitare che altrimenti a tavolo contrattuale, come giustamente dice Luca, poi alla fine dice no, allora voi ci state parlando solo di quello che fa interesse vostro. E per questo che bisogna... Sulla misurazione si tocca un nervo scoperto, perché noi stiamo discutendo da moltissime parti dove c'è un lavoro molto intenso, no? Labor intensive elevatissimo. Come si fa? Sulla sostituzione delle pause o sull'eliminazione delle pause, quando è dimostrato che le pause invece aumentano la produttività. La produttività, esattamente. Qui c'è, care associazioni di imprenditori, su questo siete indietro anche voi, anche le più avanzate, conosciuto dal Lombarda, perché guardate i numeri dell'osservatorio smart working del Politecnico, però poi dovete interagire col Politecnico e dovete anche mettere sotto contratto qualche giovane ricercatore, secondo me. Tutti ci guadagnerebbero, i sindacati loro, ma voi i vostri, perché così si fanno contratti davvero nelle aziende più avanzati, più conciliativi e di reciproco guadagno. Grazie a Mariano Corso, Luca Ferrari. Noi torniamo tra un minuto e andiamo in Cina. Della belva. Allora, cari ascoltatori di Allegri, compagni di Conti la Belva, Oscar, Mario, caro Alberto, e adesso si aggiunge anche dalla Cina Rita Faticuso. Però prima di andare in Cina, qualche rapida lettura di SMS di ascoltatori. Da chi cominciamo? Cominciamo da chi dice che, per esempio, da Copenaghen, Alessandro dice che working from home è la norma in Danimarca e funziona ottimamente. Basterebbe copiare degli esempi virtuali del Nord Europa. Concordo la vostra analisi. Grazie Alessandro, la verità è che appunto dobbiamo imparare a vedere come il modello organizzativo degli altri paesi ci spiega come applicare questa cosa e non accampare scuse, per esempio, sulla tecnologia. Tant'è vero che c'è un altro ascoltatore che dice: ADSL e altri costi pagati dall'azienda bastano 2 megapixel, megabit per secondo per smartphone e videochiamata con sharing. Pertanto, almeno in Lombardia la banda non è un problema. Quindi, no, la banda non è un problema nemmeno in Lombardia, diciamo. La banda Bassotti, forse. Esatto, rispetto a alcune indagini. Alcuni poi confondono perché dicono: guardate che su Renzi, guardate le quotazioni di Deutsche Bank. Ha ragione Renzi. Noi vi abbiamo ricordato che quando Deutsche Bank dice facciamo il buyback, dice, rassicuriamo tutti, mettiamoci un po' di miliardi, ci ricompriamo, no? E boh, il mercato ha detto: no, noi francamente no grazie, ce li teniamo perché guadagneremo di più tenendoceli. Quindi, siccome questo è quello che è venuto sul mercato in questi giorni, scusate, i fatti sono questi. Poi intervengo per fatto personale, caro Oscar. Dice: ma Carnevale Maffè che deplora i canali informali, i biglietti di Springsteen li ha trovati con i canali digitali. Esatto, io ho un sistema di alerting di Ticket One che mi avverte 12 secondi dopo la disponibilità, li ho comprati 22 secondi dopo o rigorosamente online. Gianluca Damagione ci fa capire qual è il problema di questo paese. Cioè, perché Gianluca dello smart working chiede: e se il lavoratore si infortuna a casa, chi paga? Chi paga? Non sfruttiamo. No, negli accordi, non tema, c'è anche questo aspetto. Posso farle però una gentile riflessione, Gianluca? Capisce che non può essere questa la prima obiezione, no? Rispetto alla maniera di cambiare in maniera il modo di organizzare e gestire il lavoro, lo dico dal punto di vista del lavoratore e dell'impresa, no? È un po' così, vai via, se cado. Ecco. Ma no. Vi rendete conto che siete voi nel coro, ci dice Francesco, e non tutti gli altri? È tutto grande, viva i manager, i risparmiatori italiani non sanno come si risparmia, la tecnologia anche quando non serve. Ma caro Francesco, noi siamo nel coro e tutti gli altri invece cosa fanno? La mia banda suona il rock a esatto. Questo punto. Non lo so se noi siamo il coro, veramente. Comunque, per esempio, ci sono gli ascoltatori convinti, come i 150 finale di numero, che siccome non ci criticano, noi non leggiamo. Ma certo che leggiamo, perché per esempio lui augura a me, che, benissimo, 5 anni sui ponteggi e sugli asfalti stradali da fare nei periodi di festivi. Benissimo, cioè non è che, sa, io lavoro quando avevo 17 anni, che cosa pensa che ho fatto il conduttore radiofonico quando avevo 17 anni e questa è la sua convinzione? No, guardi, no, detto questo, benissimo, e bene, io penso che si debba cambiare il modo di organizzare il tutto, quindi non credo che esista il mondo diviso in classi che mi interessino solo, capisce, i manager, non è così. Oggi abbiamo proprio parlato, abbiamo durissimamente criticato che le imprese non capiscono, per tipi di manager, alle risorse umane, la necessità di cambiare i modelli organizzativi prima ancora che arrivare al lavoro intelligente. Non si fa lavoro intelligente se non hai cambiato la testa o il dirigente che si occupa delle risorse umane. E questo ascoltatore Massimo Corbellini che dice: ho capito che Renzi fa overselling ma è parte del suo lavoro, capisci che anche Merkel, Sarkozy eccetera fanno overselling, quindi quando siamo un po' meno ultimi sii anche tu un po' positivo, altrimenti diventi lo specchio di quelli che giustamente vuoi tenere sotto pressione. Ma noi siamo meno ultimi dove? Primo. Dove? Primo. Secondo, se, come dice Massimo, Renzi fa il mestiere che fanno gli altri premi, lo farà pure lui, lo farà come meglio dire, ma non è il mio, non è il mio, io faccio un altro mestiere, Massimo. E questa storia dei media cooperativi con le menzogne dei governi è il tradimento, dai, della missione dei media. Non potete chiederci questo, dai. Mi dispiace, se gli augusti direttori di media per fare carriera sposano questa maniera di fare, io non mi impanco perché non sono un uomo di mondo, capita, ma non è il modello da predicare e da realizzare. I giornali perdono copie perché non hanno saputo fare questo, tra le altre cose, oltre che perché indietro anche loro nei processi organizzativi, gestionali, esatto, e di diffusione, ma perché non hanno saputo svolgerlo. Tant'è vero che quando arriva un giornale nella scena italiana che lo svolge un pochino più come cane da presa, più selvaggiamente di altri, il Fatto Quotidiano diventa la novità degli ultimi anni come impresa editoriale, guarda caso, no? E questo è il punto. Dopodiché io sono l'ultimo, però la penso così. Allora, esaurite un po' di curiosità dei nostri ascoltatori, sigletta cinese del piano quinquennale. Hey, have you guys heard what's going on in China? President Xi Jinping's new style? Yes, and there's more. The Shisan Wu. The what? China's 13th five-year plan. Allora, io devo ammettere, la vocina di questa cantante mi seduce ogni volta, non ci posso fare niente. Vabbè, invece Rita Faticoso a Pechino si fa sedurre dai cinesi maschi, però vabbè, questo lasciamo perdere. Come stai, Rita? Sono abbastanza bene, lo sai che non sono a Pechino ma a Shanghai. Sì, giusto? Perché c'è il G20, certamente. Certamente c'è il G20. Esatto. C'è qualche novità fresca? No, semplicemente hanno concluso i lavori e mentre stiamo parlando c'è appunto questa conferenza stampa finale, e chiaramente gestita dalla Cina, che in realtà la montagna ha partorito un topolino, perché piccolo. Si doveva arrivare a un tipo di come dire, percorso molto più concreto, molto più deciso. La scelta era più basta con le politiche monetarie e andiamo più sulla domanda, stimolare la domanda in tutti quanti i paesi, non soltanto chiaramente la Cina, ma sembra proprio che questo compromesso, diciamo, non sia troppo passato perché è troppo complicato. Non è sicuramente passato, quindi ieri c'è stata una conferenza stampa del governatore della People's Bank of China, che ha impugnato l'estintore e ha cercato di convincere il mondo e i mercati, ci è riuscito in parte, che tutto bene, non tutto ci sono bene problemi. Nessuna svalutazione, sappiamo che non è così, dello Yuan Minbi alle comunità. Ho letto i resoconti, effettivamente sembrava che il sole splenda 24 ore al giorno, che la notte sia stata abolita dalle vostre parti, più o meno. Assolutamente, devo dire che in realtà non è assolutamente così, tanto è vero che non so se avete colto questa cosa successa due giorni fa, addirittura la Cina ha detto basta, adesso aumenteremo il nostro deficit, abbiamo dei margini e con quello andremo avanti, cioè andiamo a sfondare il tetto del 3%, anche del 4%, e noi Maastricht non sappiamo cos'è, non ci interessa, insomma facciamo a modo nostro. Ecco, se cominciano a usare anche la leva dell'indebitamento, la vedo un po' nera. Però le condizioni sono queste. Ma è vero, è vero che Londra aveva chiesto, oggi c'è il titolo d'apertura solo su questo, ha chiesto la dichiarazione anti-Brexit Londra al G20, com'è finita questa? Assolutamente, sì? Assolutamente, e non è che sia stata recepita in questi termini, però sicuramente c'è stato, come dire, una sorta di considerazione sul discorso appunto che l'Europa deve essere molto compatta, e ci dicevano, c'è stata la conferenza stampa di Visco, il nostro governatore, e della appena finita del nostro ministro delle finanze Padoan, che in realtà si è parlato molto di questo. Ovviamente nulla poteva essere scritto così, della serie facciamo tutto questo percorso a patto che la Gran Bretagna non esca, però si è parlato molto, si è parlato anche dei flussi migratori, si è parlato di una instabilità, cioè l'Europa è sicuramente avvertita come un posto, un punto nel mondo abbastanza instabile, questo totalmente non è instabile, e devo dire che poi tra Brexit, la condizione spagnola, la Spagna arriva a elezioni perché l'accordo tra PSOE e Ciudadanos non ha la maggioranza e a questo punto porta inevitabilmente alle elezioni, e tutto quello che si è messo in moto è una condizione in cui l'Europa diventa miccia mondiale. La cosa che ti chiedo è questa, perché ho visto che nella dichiarazione di G20 c'è no alle guerre valutarie, ma nella realtà, da quello che avete capito quando c'è stata poi la conferenza stampa del governatore, del governatore, presidente, ecco, cinese, c'è un livello di cooperazione riservata sui flussi di capitale in uscita dalla Cina e dai paesi emergenti tra BCE, Cina e Fed, oppure no? A mio avviso no, e anche perché esiste proprio, addirittura il governatore ha detto che esiste una tale composizione di questi flussi in cui loro ci mettono anche i fondi che stanno dando alle imprese per internazionalizzarsi, cioè la strategia Go Global viene considerata parte di questi flussi, quindi comunque c'è un tentativo di in qualche modo nascondere la fonte di questi, e di dire ok, va bene, la cosa interessante è che molti di questi flussi servono a investire nel resto del mondo. Ma sono anche, come tu volte più spesso hai spiegato quando ancora nessuno lo spiegava, che appunto se ChinaChem va a comprare a quei prezzi a decine di miliardi altrove, proprio per, tra virgolette, diminuire, levare risorse da Yuan Renminbi e andare fuori, come è evidente. Quindi, allora, sì. ChinaChem lo fa per due motivi. Uno, perché ha bisogno di tecnologia, questo è evidente, è fondamentale. Guarda, basta vedere l'ultimo mega investimento che hanno fatto. E secondo, lo fa anche in qualche modo perché aziende come quella non trovano altre fonti, modalità di investimento in casa propria. Esatto. Okay? E quindi hanno bisogno di investire all'estero e di portarli fuori, perché se no non renderebbero qua questi soldi. Come lo fa il tycoon piccolo, lo fanno anche le aziende grandi, lo fanno un po' tutti. Non esiste quella collaborazione, questo sì, perché come vi avevo detto, addirittura delle banche che operano straniere a Hong Kong sono state commissariate, un po' congelate nel traffico cross border. E quindi diciamo che sinceramente la situazione è tutta un po' spostata sul controllo da parte della Cina. Questo secondo me non va tanto bene, perché alla fine il paese rischia di essere un po', come dire, non si fanno il G20 per arrivare a delle strategie condivise. Cioè, pare che questo è un po', guarda, strano. Capito? La governance mondiale post 2011 si è inabissata, è stata una bella promessa, ma non va da nessuna parte. Aspettate un secondo, torniamo sempre con Rita, ma ci abbiamo il traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della belva. Allora, abbiamo con noi appunto Rita Fatiguso, che è collegata da Shanghai per il G20. Stiamo ragionando su questo subito post chiusura del G20. Aspetta, Carlo Alberto, stavi dicendo? No, volevo chiedere a Rita, il segnale è che i governi fanno fatica a coordinarsi, ma che gli imprenditori cinesi, anche quelli medio piccoli, stanno guardando all'estero come un'area di sviluppo. Per me è un bel segnale, perché è un segnale di apertura. Per tutti questi anni hanno cercato di attirare capitali, adesso stanno cercando di investire, non solo per ragioni di ricerca di tecnologia, ma proprio per una intelligenza e diversificazione. Proviamo a leggere positivamente il segnale della società, non dico civile, ma almeno di quella economica cinese. Non vedi io li vedo in giro, no? Vedo tanti imprenditori cinesi, anche medi, non soltanto le grandi China Chemicals, a cercare opportunità di investimento e di collaborazione all'estero. Mi confermi questa sensazione, Rita? Sì, assolutamente, anche perché poi sono prove generali in qualche modo di gestione di questo essere al di fuori della Cina dal punto di vista manageriale, dal punto di vista della capacità di anche affrontare mercati veramente capitalistici. Qui sappiamo che i vincoli sono ancora molto forti, per cui proprio si tratta di cambiare un po' la mentalità e anche di non parlo degli immigrati, delle comunità immigrate, sappiamo benissimo quanto siano brave poi a approfittare della loro permanenza all'estero. Mi riferisco proprio ai cinesi che poi mainland China, che escono o comunque fondano nuove branche della società. Sì, sicuramente un elemento molto positivo, però ecco, qui l'elemento umano, l'elemento professionale, l'elemento manageriale è molto importante. Se voi fate un riferimento alla stessa ChinaChem di cui parlavamo prima, che è probabilmente il gruppo che ha fatto le più grandi acquisizioni, ha lasciato abbastanza tutto com'era, in realtà sta facendo un grandissimo lavoro per cercare poi dopo di capire come gestirle queste società all'estero, perché poi le società basta comprarle, bisogna proprio farle andare avanti giorno per giorno, cercando di unire anche diversi tipi di modalità di amministrazione del personale, di tante cose minime, ma che poi risultano veramente importanti. E quindi questa è una sfida grandissima da questo punto di vista. Possiamo capire, farti una domanda, questi sono i temi che troviamo sulla stampa internazionale, italiana, eccetera. Domanda per spiegare invece a chi è qui. Per esempio, su media diffusi in Cina, una roba come il G20, che tipo di attenzione, impatto, collocazione della gerarchia notizia? Allora, innanzitutto loro sono super orgogliosi di aver ospitato, quindi viene considerato una delle cose come fosse le Olimpiadi e tutto il resto. Quindi quando loro sono, poi per carità, se mi vedeste qui in questa sala stampa, cioè gli altri colleghi che hanno già fatto altri G20 sono un po' meravigliati, perché è una cosa in tono minore, cioè la difficoltà di organizzarsi è abbastanza forte, però diciamo per loro è una questione di orgoglio. Per questo arrivarci non con i conti in ordine, cioè come se uno appunto invita qualcuno, fa una festa, apre la porta, arrivano gli invitati ed è in déshabillé. Allora dice: cavolo, però non sono, mi sono messa in tiro, non sono perfetta. Ecco, c'hanno un po' sta sindrome, questa cosa si vede, e l'apice sarà poi a marzo ad Hangzhou, dove ci sarà il vero e proprio G20. Qua siamo ai passi appunto preliminari, e devo dire che sinceramente c'è molta diffusione sulla stampa di questa cosa qui. Loro sono sicuramente molto molto, come dire, contenti anche di avere in mano questo pallino, perché diventa una dimostrazione esibita del fatto che sono bene, sul palco delle grandi potenze mondiali. Ecco, insomma, questo. Esatto, sì, loro considerano questi elementi qui come una sorta di, cioè un altro passo verso il salotto buono. Entrare nel salotto buono per loro è importante, come era stato con il basket, no? Vi ricordate, delle monete, è stato anche per altre cose. Ma anche rialineare i tassi di crescita alla fine è una forma di integrazione, perché è chiaro che una crescita che è triplo, il quadruplo, il quintuplo del mondo occidentale, alla fine è uno stress, alla fine è una disfunzione. Mi spiace dirlo, ma è così. Una Cina che cresce un po' di meno, ma cresce insieme al resto del mondo, non solo col trade ma con gli investimenti, con l'organizzazione. Io insisto, rimango ottimista sulla capacità dei cinesi di guardare. Vedo che tu sei molto positivo da questo punto di vista. Da 20 anni sulla Cina. Secondo me non è male, insomma, pensarla anche in questi termini, cioè il fatto che sono sempre prove tecniche di integrazione, però, e di globalizzazione. Aspetta, però a me piace il fatto che non parliamo con Rita, perché da una parte non vorrei che il nostro ottimismo trasformazionale, come si dice, è un conto, perché lo facciamo da osservatori e perché ci piace l'idea di vedere questo complesso fase che è aperta in Cina come una cosa che in realtà aiuta l'integrazione, mentre il resto del mondo sta, ohimè, correndo di nuovo verso autarchia, nazionalismi, eccetera eccetera. Dall'altra parte però, Rita, serve a farci capire da dentro quanto gli scricchioli bisogna prenderli sul serio. Perché questo è il punto vero. Bisogna assolutamente prenderli sul serio. Secondo me i primi a prenderli sul serio sono gli stessi cinesi, solo che sono bravissimi a non esternalizzarli e cercare di risolverli finché possono in casa, cioè capito, farne un i panni sporchi si lavano a casa, esatto, abbastanza, finché possono, perché poi se sono su uno scenario globale non possono e non potranno farlo, cioè se vanno avanti a questi ritmi di falò delle riserve in dollari al mese non è che hanno vita lunga, assolutamente, per essere chiari, assolutamente, anche perché non si può sempre pensare che arrivi il governatore Superman ultra sessantenne al terzo mandato che arriva. Tu questo Xiao Chuan ce l'hai un po' sul gozzo, però ogni volta dici non lo rinnovo, lo rinnovano sempre. No, lo ammiro molto, ma mi rendo conto che ne fanno un uso politico. Ne fanno un uso politico. È una persona che ha, lo so. È una persona che ha una grande spendibilità. Guarda che mondiale. Lavorare di tacco e punta, come ha fatto lui in questi anni, cambiando anche fino a 3 volte alla settimana le misure repo interne, con la quantità di shadow banking che c'è in Cina, mostruosa, quello sì. E gli attivi marci dei grandi sistemi di credito, è una roba da numero uno, ma non mondiale o planetario, tra le galassie, se posso dire. Io ho un'ammirazione totale per Xiao Xuan. Detto tutto questo, grazie a Rita Fatiguso e grazie ai compari dei conti della Belva, Mario. Caro Alberto. E lo so, Renato, lo so che sappiamo, se lo sei in Spagna, quindi non ti abbiamo voluto disturbare oggi. Comunque continuate con la 24, appuntamento con me alle 8:15 lunedì mattina con Alessandro Milan e me, attenti noi due.